Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Manca solo la pubblicazione in Gazzetta e finalmente entrerà in vigore, dopo una lunga attesa, il nuovo conto termico, quindi il sistema di incentivazione dedicato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e, nel caso degli edifici pubblici di cui ci occupiamo questa sera, anche al miglioramento dell'involucro, quindi agli interventi di isolamento, per esempio. Buonasera ad Alberto Montanini, presidente di Assotermica, che torna a trovarci per questa seconda serata per parlare del nuovo conto termico. Benvenuto. Grazie, buonasera, ben ritrovato. Allora, ieri sera abbiamo ricordato che il conto termico, per quanto riguarda i privati cittadini, le industrie e quant'altro, finanzia che cosa? L'installazione di sistemi a biomassa efficienti, pompe di calore, quindi riscaldamento, solare termico e la sostituzione, diciamo, dei cosiddetti scaldabagno elettrici con scaldabagno in pompa di calore. Più o meno su questi interventi ci sono degli incentivi che oscillano tra il 30 e il 40% del valore dell'investimento, che viene restituito in un periodo che può andare da un anno fino a 5 a seconda dei casi, per semplificare. Intanto, Montanini, per il pubblico invece il conto termico ha un'applicazione molto più ampia. Che cos'altro incentiva nel caso degli edifici pubblici il conto termico? Innanzitutto incentiva anche l'installazione di caldaie a condensazione per quanto riguarda le parti impiantistiche, che nel privato non c'è, perché il privato può sfruttare l'agevolazione fiscale del 65%. Poi ci sono tutta una serie di interventi sull'involucro edilizio, quindi l'isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione delle tamponature, degli serramenti e così via. Tutti questi interventi che ovviamente non possono essere sostenuti nel caso del pubblico con una detrazione fiscale, perché come dire, gli istituti pubblici naturalmente non pagano le tasse, vengono quindi sostenuti con il meccanismo del conto termico. Ci ricorda più o meno anche qui come funziona? C'è un calcolo in base all'energia che si prevede verrà risparmiata, se non sbaglio, e qual è l'entità alla fine dell'incentivo? Qui gli incentivi sono molto interessanti. Innanzitutto diciamo che c'è un portale gestito dal GSE, cioè il gestore servizi energetici, attraverso il quale si può inserire i dati dell'intervento, si può adesso prenotare l'intervento, che è una novità molto interessante del nuovo conto termico, si può quindi avere garanzia che l'intervento sarà finanziato dal conto termico stesso. Cioè sostanzialmente la pubblica amministrazione, avendo questa garanzia, va dalla ESCO, dall'operatore di turno, dicendo: guarda che avremo i soldi per pagarti. È questo il meccanismo, no? Questa è una grande novità ed è un meccanismo molto più semplice molto rispetto a prima. Uno dei grandi vantaggi è anche quella, diciamo, della sostanziale automatica approvazione della tipologia degli interventi, perché prima bisognava introdurre anche le caratteristiche dei prodotti, quindi apparecchi, impianti, sistemi. Adesso c'è la possibilità di avere una pre-approvazione mediante la compilazione di schede su apparecchi, impianti, sistemi standard che, una volta riconosciuti dal portale, saranno automaticamente approvati. Ad esempio, inserisco i dati di una caldaia a condensazione del fabbricante Mario Rossi, modello Pippo 01, tutte quelle pubbliche amministrazioni che faranno l'intervento con quella caldaia non dovranno riscrivere. Ricalcolare la scheda, ma troveranno una scheda standard. Ecco, l'entità dell'incentivo è interessante. L'incentivo è molto interessante. Provi a pensare che per quanto riguarda la trasformazione degli edifici, quindi in edifici a energia quasi zero, l'incentivo è pari al 65% dell'investimento. E anche per quanto riguarda la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. Poi l'incentivo è pari al 50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, ad esempio nelle zone climatiche più fredde, le zone climatiche E ed F, quindi gran parte del nord Italia, o comunque le zone fredde del centro e sud Italia. Qui siamo al 50%, in altre zone al 40%. Magari zone con climi più favorevoli, che quindi hanno già più risparmio. Senta, c'è uno dei vizi un po' tipici italici, quindi anche della pubblica amministrazione, investire poco sul progetto quando si fanno interventi di efficientamento, no? Ecco, qui c'è una risposta. Sì, la risposta è il fatto che le spese per diagnosi energetiche e anche per la redazione dell'attestato di prestazione energetica adesso sono finanziate, legacy incentivate al 100%, quindi questo stimola la pubblica amministrazione a fare una diagnosi energetica completa dei propri immobili. Approfondita, e non a fare qualcosa di superficiale per risparmiare, perché poi in realtà si paga molto di più dopo, quando si fanno di questi interventi. Senta, parliamo di cifre, quanto è stato alla fine stanziato dal governo per il conto termico? sono stati stanziati 900 milioni all'anno, 700 per i privati e le imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. E secondo voi è una cifra sufficiente, scarsa? Avremmo sperato sicuramente una cifra superiore, però diciamo che attualmente in Italia la possiamo considerare una cifra ragionevole. Complessivamente mi pare che le associazioni siano piuttosto contente del risultato ottenuto fin qui. Sì, è un vantaggio che va diretto verso gli utenti finali, in modo semplice, chiaro, senza equivoci, senza ritardi, senza aggrovigliamenti della pubblica amministrazione nelle sue procedure. Quindi questo aiuta veramente il sistema paese. Va bene, grazie allora Alberto Montanini, presidente di Assotermica. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.